È un tema di cui si discute da anni negli Stati Uniti, ci sono delle campagne in corso appunto per ridurre i fondi, per tagliare i fondi alle forze dell'ordine e ovviamente pretendere che gli stessi fondi vengano investiti in progetti sociali. Essenzialmente è un'esigenza che risponde al problema che inizia a essere sempre più prestante anche da noi, che se hai un problema nel tuo quartiere di qualsiasi tipo ti viene automatico chiamare la polizia, anche se non è un problema strettamente di ordine pubblico. Nell'intervista Alex Vitale dice che l'80% delle chiamate alla polizia di New York sono legate a crisi di salute mentale, legate a un problema che non è un problema legato alla criminalità e che la polizia deve affrontare senza avere neanche le giuste competenze. Ma se noi guardiamo tutto quello che è stata la tolleranza zero in America, le politiche di sicurezza in America, tutto quello che è il modo in cui si sono riverberate negli ultimi anni da noi con l'emergenza di sicurezza, vediamo come in fondo è così. Tantissime questioni che sono anche questioni culturali, di integrazione, di mediazione tra diverse culture, sono state demandate alla polizia. La polizia è l'unica forma in cui lo Stato si esprime dentro le comunità, questo è il grande problema, che sovraccarica la polizia di competenze non sue, che aumenta il tasso di repressione e che fa percepire alle persone l'intervento pubblico come puro intervento di mantenimento dell'ordine. Quello che sta avvenendo negli Stati Uniti è molto interessante da questo punto di vista, perché da un lato ci dice molto, molto banalmente che queste sono mosse producono un effetto politico, non è vero che sono solo espressione di una rabbia che può essere anche giusta, che in fondo non ha sbocchi, produce delle conseguenze. E così era stato anche per tutto il ciclo delle rivolte statunitensi, da quelle degli anni 60 per i diritti civili in poi, no? Ci sono studi che dimostrano che ogni ciclo di rivolte ha prodotto aumento degli investimenti pubblici in vita nelle comunità in cui c'erano state le ribellioni, e dall'altro posta in avanti l'asticella e porta avanti alcune campagne che in America erano state messe in atto appunto per definanziare la polizia. È chiaro che da noi è un discorso un po' più complesso, il discorso della riforma della polizia degli anni 70 è Stato a suo modo comunque, e mi riferisco in questo caso non alle forze dell'ordine in generale ma alla polizia in quanto organo non militare, è stato frutto di battaglie per portare una cultura democratica dentro la polizia, e anzi ci vorrebbero ancora politiche di quel tipo. Però iniziare a pensare che non è solo la polizia a dover rispondere ai bisogni dei territori è fondamentale. Mi viene in mente proprio a proposito di Bologna, che quando Sergio Cofferati lanciò la sua campagna di fatto di tolleranza zero, inizialmente la logica era di dire tutte le forme piccole di illegalità, anche quelle più come i mendicanti, vanno a colpire i più deboli, quindi è di sinistra occuparsi di sicurezza e di sinistra chiedere più repressione. Ebbene, io mi ricordo benissimo che in quel periodo un vigile urbano di Bologna mi raccontò che questa roba aveva scatenato un effetto moltiplicatore, per cui venivano chiamate i numeri dell'emergenza delle forze dell'ordine per qualsiasi cosa, anche per una lite condominiale. Era passato il messaggio che appunto gli uomini in divisa dovessero dirimere qualsiasi questione. Questo è il contrario in fondo delle politiche pubbliche, delle politiche sociali. Infatti, tornando all'esempio newyorkese, il punto è che per problemi di salute mentale forse è meglio uno psicologo rispetto a un poliziotto. O un assistente sociale, assolutamente sì. Sono cose che, guarda, sono cose quasi banali, però Alex Vitale spiega bene che la politica è fatta anche di esempi concreti. Se per tanti anni tu non hai mai visto un assistente sociale, un consultore in attività nel tuo territorio, non ci pensi neanche che forse serve quello invece di un poliziotto. Oltretutto, sempre a proposito di New York, quando Rudolph Giuliani diventa sindaco a New York, un magistrato noto per essere un magistrato anticorruzione, indipendente ma legato al Partito Repubblicano, diventa sindaco in una città che era sempre stata progressista e democratica, per gestire essenzialmente la grande gentrification di Manhattan e la ristrutturazione urbanistica di New York, e lancia la campagna sulle finestre rotte della tolleranza zero. Anche una finestra rotta in un palazzo incoraggia la criminalità, quindi anche ogni piccolo gesto che viene considerato al di fuori della norma va represso duramente. All'inizio sembra essere un grande successo perché si riducono i problemi di ordine pubblico a New York, e poi succedono due cose che ridimensionano fortemente l'impatto delle politiche di tolleranza zero e delle politiche securitarie basate sul massiccio uso della polizia. La prima è che banalmente alla Corte Costituzionale americana iniziano ad arrivare sentenze che smontano tutti i passaggi della tolleranza zero e tutti gli eccessivi poteri dati alla polizia, e casi come quello di George Floyd ce ne sono stati molti in quegli anni. E poi succede un'altra cosa, forse per certi versi anche più interessante, cioè che il tasso di riduzione della piccola criminalità che si è verificato a New York in quegli anni di politiche repressive si verifica allo stesso modo, se non di più, in città degli Stati Uniti in cui si erano fatte politiche che non erano basate sulla polizia ma su investimenti sociali, quindi che avevano attuato un altro paradigma che non era quello della tolleranza zero, il che dimostra che non era stata il massiccio intervento della polizia a grave scapito dei diritti dei cittadini a produrre la riduzione della criminalità, ma c'erano altri fenomeni in corso come appunto la mutazione anche delle forme della criminalità urbana. Basti dire, per rimanere agli ultimi anni, che evidentemente lo spaccio in piazza nell'era dei telefonini e di internet ha molta meno importanza rispetto a prima, o che rubare una macchina è molto più difficile rispetto a prima nell'era del controllo satellitare e così via, insomma. E le rivolte urbane negli Stati Uniti forse ci dicono questa cosa qui. C'è sempre il tema che viene utilizzato sia a destra che a sinistra, chiamiamola così, non tanto della sicurezza ma della percezione della sicurezza. Come cambiare questa percezione per cambiare poi le politiche? Sicuramente, ma questo è molto legato al fatto che non si vede altra forma di politica che non sia una politica repressiva. L'idea che le nostre città e le nostre strade siano insicure è ampiamente smentita dai numeri da tanti anni, ma negli anni zero ci fu un rapporto del capo della polizia De Gennaro, che sappiamo sulla nostra pelle, diciamo, non essere una persona che si fa problemi a usare il pugno di ferro, che diceva i reati sono tutti in diminuzione, tutti quanti, e abbiamo dimostrato il fatto che le persone che percepiscono insicurezza per le strade sono quelle che guardano più televisione. Quindi questo è un elemento. L'altro elemento è legato al fatto che probabilmente la percezione dell'insicurezza è legata al fatto che se prima per strada avvenivano cose losche, in qualche modo erano cose losche che si svolgevano secondo codici che tu conoscevi, secondo lingue e anche codici di comunicazione che appartenevano alle persone che ci vivevano. Oggi avviene invece che vivono persone di diverse culture nelle nostre strade, nelle nostre periferie, e che quindi si ha la percezione che tutto questo sia incontrollabile. È facile capire come tutto ciò si risolva mettendo in comunicazione le diverse culture e costruendo luoghi, spazi pubblici di confronto e di scambio, e non assecondando il fatto che se una cosa avviene nei codici di una cultura in una lingua diversa dalla tua, allora è incontrollabile, allora c'è qualcosa da nascondere.